Sapevate che è stata un'italiana la prima donna laureata al mondo? Si tratta della veneziana Elena Lucrezia Cornaro e il riconoscimento le fu conferito dall'Università di Padova nonostante l'opposizione del cardinale Gregorio Barbarigo, vescovo della città, che riteneva uno sproposito dottorare una donna. Dopo una lunga disputa, nel 1678 le venne riconosciuta la laurea in filosofia, pur essendosi in realtà specializzata in teologia. Inoltre, non le fu concesso di esercitare l'insegnamento. La sua fama di donna erudita, tuttavia, era così grande che si racconta che durante la cerimonia di proclamazione fossero presenti 30.000 persone, al punto da rendere necessario spostare in piazza la discussione della tesi. Pare che tra i curiosi ci fossero anche degli osservatori inviati dal sovrano francese Luigi XVI, affascinato da quella straordinaria intelligenza. In Italia si dovette attendere il 1732 per avere un'altra donna laureata. Si tratta del fisico Laura Bassi, alla quale, grazie all'intervento del cardinale bolognese Prospero Lambertini, che diventerà Papa Benedetto XIV, nel 1732 venne anche concesso il diritto alla libera docenza. Anch'essa laureata in filosofia, a partire dal 1749 si applicò alla fisica sperimentale, applicando le teorie newtoniane in numerosi campi di ricerca. Era così brillante che arrivò a ricevere uno dei più alti stipendi per un docente dello studium, ben 1.000 lire. A sottolineare la vocazione al femminile dell'Università bolognese, riportiamo le parole della poetessa francese Louise Collet, che nel 1862 scrisse: «In Italia, la scienza non disdegna l'ispirazione poetica e né tantomeno le donne. Al contrario, esse sono ammesse con tutti gli onori all'insegnamento pubblico». Molte donne hanno insegnato all'Università di Bologna. Con grande plauso, nel XIV secolo, la giovane Novella Calderini sostituiva spesso suo padre. Era tanto bella da essere costretta a restare dietro una tenda per non distrarre il suo uditorio. Nel XVIII secolo, Clotilde Tambroni vi insegna il greco e Gaetana Agnesi le scienze matematiche. In Francia, la Sorbona non ammette le donne neanche come uditrici. Quelle più intelligenti tra loro, qualora volessero fare intendere la loro voce, anche coperte da un velo, al Collège de France sarebbero subito sopraffatte dagli schiamazzi della nostra onnipotente maschia gioventù. E infatti, in un'epoca in cui lo studium si divideva in scuola di diritto e scuola delle arti, una donna si affermò come giurista. Si tratta di Bitisia Gozzadini, la cui vicenda accademica potrebbe insidiare il primato della Cornaro. Pare infatti che abbia ricevuto la licenza, come era chiamata l'odierna laurea, nel 1237 in giurisprudenza a Bologna, per poi esercitare l'insegnamento per 2 anni nella sua abitazione e poi, per ben 22 anni, in un'aula messa a disposizione dallo studium, ottenendo un grandissimo seguito di allievi. Le sue lezioni erano così frequentate che più volte fu costretta a tenerle all'aperto. Nata nel 1209 da un'antica famiglia nobile bolognese, la figura di Bitisia è avvolta da un alone di mistero. Pare infatti che fosse sua abitudine indossare vestiti da uomo. Secondo gli storici del passato, non volle piegar l'animo ad adoperar l'ago. Ma ci sono altre ipotesi. Forse fu costretta a seguire i corsi per conseguire la laurea celando la propria femminilità. O forse il suo fu un modo di imitare Assiotea o Lastenia, le allieve di Platone. Ciò che sappiamo è che secondo i suoi colleghi era un mostro eccezionale, nel senso di meraviglia, e che fu la prima donna a insegnare in Ateneo. Bitisia morì nel 1261 a seguito di una serie di sventurate circostanze. Il fiume Idice, infatti, straripò e inondò le aree circostanti, causando il crollo dell'abitazione in cui si era riparata. Per commemorare il lutto, le scuole pubbliche sospesero per un giorno le lezioni. Il suo funerale fu celebrato alla presenza di docenti e studenti nella chiesa di Santa Maria dei Servi. Una figura femminile legata allo studium avvolta nel mistero è quella di Novella d'Andrea, che nel XIV secolo insegnava con il volto velato. Alcuni sostengono che lo indossasse per celare la propria bellezza e non turbare così gli animi dei numerosi studenti che la seguivano. Tra i meriti del celebre Papa Lambertini, che abbiamo già nominato, ci fu quello di combattere la misoginia nell'ambiente universitario. Oltre a incoraggiare la carriera accademica di Laura Bassi, infatti, fu lui a invitare la milanese Maria Gaetana Agnesi a Bologna, offrendole nel 1750 la cattedra di matematica che era stata del padre. Per terminare la carrellata delle illustri docenti dello studium, ricordiamo Anna Morandi Manzolini e Clotilde Tambroni. Di Anna Morandi Manzolini abbiamo già parlato. a metà del Settecento era una ceroplasta così celebre che la sua fama valicò i confini nazionali, arrivando fino in Russia. L'imperatrice Caterina II, infatti, le chiese di trasferirsi alla sua corte, ma lei preferì restare a Bologna. Aggregata all'Accademia Clementina e all'Accademia delle Scienze nel 1756, insegnò anatomia grazie a una licenza conferitale dal Senato cittadino, che le permetteva di esercitare l'insegnamento sia presso lo studium sia nella propria abitazione. Come abbiamo già avuto modo di raccontare, i suoi perfetti modelli anatomici sono conservati dal 1774 a Palazzo Poggi, un tempo sede dell'Istituto delle Scienze, poi sede del Rettorato, oggi principale museo dell'Università. Singolare la vicenda di Clotilde Tambroni. Era così portata all'apprendimento delle lingue che imparò il greco soltanto assistendo alle lezioni private che il grecista Emanuele Aponte impartiva a un suo allievo. Era così brillante che ottenne la cattedra di greco nel 1793, nonostante non fosse ancora laureata. La sua sconfinata cultura fu oggetto di ammirazione da parte di Napoleone in persona, che nel 1799 la riconfermò docente presso lo studium nonostante non avesse prestato giuramento al governo della Repubblica Cisalpina. La scienza della tagliatella.